fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Sì, ecco, per raccontarsi, per raccontare, finalmente dopo mille peripezie ci siamo trovati qua questa sera, questo sabato... Dave, ma perché tieni le mani? Anzi, domenica, sì, perché una volta ci vedevano, capito? Perché siamo a convento, capito? C'è da pregare la Valentina, che la Vale vale, la perché vale, la Vale vale, e ci ha permesso, ci ha schiacciato il bottone, che c'è, e trac, è partito tutto, capito? Ma Valentina, quanto valgo, ma quanto vale la Valentina? Si autostima tantissimo. Sì. Sandrino. Io non valgo una sega proprio. Fai solo presenza. Faccio solo presenza. C'è il calendario degli appuntamenti di Valentina, mi stai tirando fuori? Applausi. Grazie. Applausi per la Valentina. Sì, il pubblico. Tutto pubblico. Ti a seconda? Sì, sì. C'è qualcosa che ti a terza o ti a prima? Ti a seconda o ti a terza? Mia prima, dai. No, la tragedia. Attenzione, Vale si dichiara in maniera inconscia. Sono esattamente, anzi, è un sabato notte che si è tramutato in domenica 23 aprile. E sono le 2:49, 39 secondi, 40 secondi, 41 secondi, 42 secondi. Veramente divertente stare ad ascoltarti. Mamma mia, diciamo che il tempo passa. Passa e non passa. Saluta. È un po' scostumato. Saluta. È bello stare qua con voi a dire, a sentire queste cose. Sì, come i bei vecchi tempi. Mi manca tanto la Nadia, però la Valentina è una valida sostituta. Eh sì, vale, io però metterei non gli manca... Esatto. Stavo dicendo, manca una E poi gli manca quell'eclissi che c'era tra di noi. C'erano le montagne. Esatto. Ma beh, anche, sì, anche qua le montagne non sono, scarseggiano. Ci sono delle valli. Guardala montagne negli occhi, Dave. Che colore ha gli occhi, Valentina? Abbiamo un'intrusione. Come che, mai ecco, non si attento, può entrare con la sicurezza? Non si può entrare con assoluta. Non si può entrare col drink. Lo lascio fuori. Cazzo, vedi, cioè, già vedi la porta, la differenza che fa la porta. Sì, uno è così in diretta e poi entra la cettola qualunque. È entrato mani in alto, siamo però, in diretta. Cosa vuole? Parla nel microfono. Correggevo quello che ha detto, che è entrato un cetto da qualunque. È entrato un pezzo di merda, rompe i coglioni. Bravissimo. A una cosa che stava. Allora mi hai letto il labiale. No, ma si autostima, tra l'altro, ragazzo. Cioè, no, io lo vedo che. Sono sincero. Da dove arrivi? Reggio Emilia. Come ti chiami? Tommaso. Ascolta, Tommaso. Un fiorino. No, allora, Tommaso. Ti spiego il perché sono venuto qua. Metti. Aspetta che spiega, aspetta. Senti? Che ci spiega. Parla qui. Sì. Sono entrato perché prima è venuto un ragazzo. Innanzitutto sei entrato senza suonare, senza bussare, senza farti avvisare, annunciare. Annunciazione. C'è una porta di legno però che separa voi da noi. E non ho visto citofoni, non ho visto niente. Giustamente, anche lui ha ragione, non ha visto citofoni. Se ci fosse stato un cartello, tu fai l'avvocato del diavolo? No, io sono non so. Pensa, se ci fosse stato un cartello, tu non puoi entrare, io non sarei entrato. Tanto dedicato a lui, cioè proprio. Ma il cartello c'era, ma non l'hai visto. Anche perché ho lasciato un cocktail per entrare, tra l'altro. L'ha buttato, è così. Questo è grave. No, il cocktail è perché qua ci sono delle apparecchiature che si potrebbero svampare. Capisci? Lo accetto e rispetto completamente al 110%. A lui non glielo dici più. No, mi accetto la qualunque anche a me adesso. Cioè, l'ha girata a me. Cioè, no. Giovanni, completo Tommaso, rispetto per voi, Michele, Tommaso. Michele, Francesco, Giulio. Lui è quello che da qui, no? Da qui. Però vedi, sì. Lui ci ha messo il dito. Tosco. Dove l'ho messo il dito? Attenzione. Giuro che Valentina, l'ho messo in tasca. Guarda. Attenzione, la Valentina. Valentina, ho la mano in tasca, il dito lo tengo al sicuro. Quello che vedi è il dito, È la fondina, è la fondina della pistola. Poi c'è la fondina della minestra. E c'è anche la fondina penale sporca questa. Ma te le tigelle ti piacciono o no? Un sacco. Ah, ma la tigella fritta? Ma che fritta? No, fritta la mangi te. Vedi? C'è del buon sangue tra di voi. I gusti sono gusti. No, allora, scusami, perché la mangi fritta? Perché mi piace. Sì, ma dove la mangi fritta? Cioè tu fai una tigella e te la friggi? Me l'hanno fatta così, eh? Ah, no, un ristorante allora te l'ha fatta così. Sì, sì. Ma sì, che sì, ristorante sì, te l'ha fatta una tigella fritta? Adesso non me lo ricordo. Sei però mai stato in Emilia? Certo che cazzo. Reggio Emilia? Ma certo, caro. Albinea, collina di Reggio Emilia. Io sono stato Trattoria Lissandret, il posto dove voi tutti volete stare. Scusate un attimo, perché ti sta invitando a cena, hai capito Dave? Vuole, ormai è diventato tuo, ti stima tantissimo. Le parolacce si possono dire? Attualmente no. Scusate un attimo, attenzione. Aspetta. Colpo di schiena. Dovete capire che le ha messe lui, come un bambino si deve. Ecco, adesso facciamo pure l'intro, quindi. Per la pubblicità Progresso? Eh sì, esatto. Ma sì, no, in realtà era però solo. È sul pezzo, ragazzo. Tobaggio. Sì, ma mica stai parlando col coglione qualunque. No, ah, beh, l'hai detto te. Ti potrei dire, ho già fatto radio. Guarda che lui. Potresti crederci che ho già fatto radio? Io Tommaso l'ho percepito, che. Pensa che non l'ho mai fatta. Io ci sono cascato, eh. Però seguo tante trasmissioni sul canale di YouTube. Ah, quindi. Che fanno radio, quindi più o meno, cioè forse, boh. So cosa forse posso dire, cosa no. Gli piacque a lui, eh? Molto. Io ho voto Tommaso. È un buon sogno, un buon sogno. Ah, ti piacerebbe lavorare alla radio? Beh, sì, è una figata. Cioè, attenzione. Faccio tutt'altro. Nuota, adesso. Nuota. Ho visto una trasmissione con questa canzone, sempre su YouTube radio. Così dicevano: il leone si riproduce con un pene di 87 centimetri. Definizione, sì, di pene. Pene è quella cosa che se ce l'hai ti crea problemi. Se non ce l'hai, ti li crea. Salutiamo, ciao a tutti. Ciao, grazie, è stato mille. Bellissimo. È stato ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Da Reggio Emilia, mille. Sandrino e Dave, ciao. Tigelle fritte, mai.